Franco. Aspetta, fammi bloccare. Ciao ragazzi, un abbraccio a tutti, buon divertimento, eh. Ragazzi, un abbraccio a tutti, buon divertimento, eh. Maria? Cazzo di casino. Bellissimo. Bellissimo, sì. Si sentiva bene.